Smart City, la città intelligente. Buonasera da Maurizio Melis. Si è concluso oggi a Parma Cibus, il Salone Internazionale dell'Alimentazione. Parliamo di un settore importantissimo per l'economia italiana, tra l'altro uno dei pochi che è riuscito a tenere botta durante la crisi. Un settore che non può fare a meno della tradizione, naturalmente, ma nemmeno dell'innovazione e, insomma, di confrontarsi con le tematiche ambientali ed energetiche del nostro tempo. Stasera, allora, vi vogliamo parlare di una competizione che, come l'anno scorso, ha trovato posto proprio all'interno di Cibus. Questa competizione si chiama Ecotrofelia e mira a far emergere una comunità interessata all'ecoinnovazione nel settore alimentare. Ci facciamo spiegare tutto da Daniele Rossi, che è amministratore delegato di Federalimentare Servizi, nonché presidente della piattaforma europea Food for Life. Buonasera Rossi. Buonasera, eccomi qua. Allora, Ecotrofelia, allora, in che cosa consiste questa competizione? Ce lo spieghi brevemente. Ecotrofelia è un premio europeo molto interessante perché mette a confronto gruppi di studenti di tutte le università europee che devono inventarsi di sana pianta da zero un prodotto alimentare innovativo. Però devono farlo seguendo tre criteri: uno nutrizionale, uno di sostenibilità ambientale e il terzo, molto originale, che deve piacere ai consumatori europei e non solo quelli intorno all'università di provenienza. Anche perché non è un esercizio accademico puro, la speranza è quella di riuscire a mettere a punto un prodotto che poi si vende. Ecco, l'esperienza passata, ci sono circa ogni anno una ventina di squadre italiane che partecipano a questa competizione italiana e il vincitore di questa competizione arriva poi a confrontarsi con tutti i vincitori degli altri 22 paesi europei che partecipano, in questo caso a ottobre sarà Parigi, in occasione del Salone dell'Alimentazione, si chiama SIAL. Ecco, questa competizione è molto interessante perché i ragazzi devono riuscire a mettere insieme non solo tecnologie alimentari, biochimica, ricette, ingredienti, ma anche packaging e soprattutto business plan per rendere commerciabili questi prodotti. Sì, appunto perché non sia un esercizio. Ecco, chi è che ha vinto l'anno scorso? Cominciamo e poi annunceremo il vincitore di quest'anno, che è notizia di ieri, appunto. Chi è che ha vinto l'anno scorso? Così capiamo anche che cosa si intende quando si dice che bisogna progettare un prodotto ecosostenibile. No, abbiamo detto l'imballaggio, ma è proprio in questo caso, se parliamo degli stessi ingredienti utilizzati per fare questo prodotto, è da lì che si parte, si comincia a fare qualcosa di sostenibile. Sì, si comincia dal campo e si arriva fino alla tavola del consumatore e il consumatore anche deve pensare al post consumo, quindi deve pensare a un packaging, a una confezione che sia riutilizzabile o riciclabile. Comunque l'anno scorso ha vinto l'Università Cattolica, quindi Cremona Piacenza, e con un prodotto molto divertente, una specie di integratore alimentare, Socroc, uno snack, integratore alimentare che aveva tre doti fondamentali. Uno era fatto tutto di scarti di produzione, cioè scarti di nocciole, scarti residui di cioccolato. Leggo sorgo bianco, vinaccioli addirittura, no? Esatto, bravissimo. E che aveva un dimensionamento calorico estremamente ridotto. Che poteva essere mangiato serenamente anche da persone come me, per esempio, in leggero sovrappeso. Vabbè, ma lei col mestiere che fa, per forza, non sarebbe credibile altrimenti. Non sarebbe credibile, esattamente. Senta, invece chi è che ha vinto quest'anno? Quest'anno ha vinto invece l'Università di Perugia, con un prodotto, proprio ieri pomeriggio, con un prodotto molto innovativo, una glassa, tipo quella di aceto balsamico, però in questo caso è fatta di uno scarto della produzione della ricotta, la scotta di latte. Sì, che è quel liquido che rimane dopo. Esatto, quel liquido che rimane dopo aver già fatto la ricotta. Che a sua volta si fa con un liquido. Che rimane dopo aver fatto il formaggio. Esatto, sì. Che normalmente buttiamo, filtriamo, diamo alle bestie. Quindi è stata riutilizzata integralmente al 70%, però in aggiunta il miele ed in aggiunta anche il peperoncino. Paprika o peperoncino italiano. Ed è venuta fuori una glassa, le dice un dressing, diciamo un condimento per insalate, cose di questo genere. Formaggi, insalate, carne rossa, fragole. L'anno scorso i vincitori sono poi arrivati terzi nella competizione europea. Stanno cercando di commercializzare, se non sbaglio, no? Addirittura. No, hanno già commercializzato. Ah, benissimo. È già sul mercato. Adesso Nord Italia e sul mercato austriaco. Perfetto, adesso tocca a questi qua fare, si spera, la stessa cosa, no? Abbiamo dato qualche consiglio aggiuntivo, per esempio il peperoncino era un po' forte. E poi l'altro suggerimento è stato quello di informare meglio il consumatore su questo prodotto originalissimo che è la scotta del latte. Grazie Daniele Rossi, buona serata. Arrivederci, grazie. Ci fermiamo qui, appuntamento a domani, parliamo ancora di Cibus, di innovazione nel settore agroalimentare.